Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali, ma anche dei mensili, perché oggi cominciamo proprio con un mensile. La domanda è abbastanza semplice e diretta: siete disposti ad esercitarvi per 10.000 ore per avere successo? Successo si intende naturalmente non un successo di tipo rockstar o con un successo di tipo planetario, ma insomma per avere successo nel proprio lavoro, nel proprio campo di attività. Beh, è quello che però bisogna poter investire, avverte Focus di questo mese in edicola. C'è una regola delle 10.000 ore, è la quantità di esercizio richiesta per arrivare al top in una qualsiasi attività, che sia sportiva o che sia un'attività lavorativa, l'abilità nel suonare uno strumento e altro ancora. C'è un lungo servizio, un dossier vero e proprio dedicato da Focus alle tre chiavi del successo, viene richiamato già in copertina, i tre fattori del successo. Perché? Perché ci sono stati degli studi scientifici abbastanza approfonditi e i tre fattori determinanti per avere successo, ripeto, non si tratta di diventare famosi come una rockstar, ma di svolgere con soddisfazione l'attività che si è scelto, si è deciso di svolgere. Ci sono appunto questi tre fattori: il primo è l'esercizio, 10.000 ore di esercizio, l'ambiente, perché la famiglia può aiutare nell'avere successo, e poi il fattore del caso, come cogliere le opportunità. Così brutalmente riassunte, queste tre chiavi del successo di cui parla Focus forse dicono molto meno di quanto poi l'articolo lasci invece intendere. Vi leggo l'attacco di questo articolo. Lo statunitense Sam Snead, che era nato nel 1912 e è scomparso nel 2002, è stato una leggenda del golf ed era ammirato per il suo swing, il suo colpo di golf perfetto. La gente, diceva Snead, diceva sempre che avevo uno swing naturale. Non pensavano che lavorassi duro, raccontò Snead a una rivista sportiva. Ma quando ero giovane giocavo e mi allenavo tutto il giorno, poi continuavo di notte alla luce dei fari della mia auto. Le mie mani sanguinavano, nessuno si esercitava nel golf più duramente di me. Nel racconto di Snead emerge, spiega Focus, un elemento che sta dietro molte storie di successo: un grande impegno per anni per perfezionare un talento. Ma il successo non è solo frutto del merito individuale di una straordinaria tenacia, contano moltissimo le opportunità che vengono offerte dalla famiglia e non solo. Da qui prende le mosse appunto questo lungo dossier di Focus. Vi segnalo tra l'altro che bisogna un po' sfatare anche il discorso che ci sia una sorta di predisposizione, di talento naturale. Perché? Perché hanno fatto degli esperimenti su questo. Un professore di psicologia alla Florida State University, che si chiama Carl Anders Ericsson, analizza da anni gli esperti, cioè quelli che lui chiama esperti. Sono persone che hanno performance, hanno rese superiori nei campi più diversi, dall'arte allo sport. E non ha dubbi, maestri, non si nasce ma si diventa. Spiega infatti questo professor Ericsson: non abbiamo rilevato che fattori innati siano necessari per il successo, con l'unica eccezione di altezza e taglia corporea in alcune attività. Si spiega meglio più avanti: è chiaro che l'altezza di una persona ha un ruolo importante in uno sport come il basket e non si può modificare con l'allenamento. Tuttavia, nelle ricerche non abbiamo trovato prove di un talento innato in chi ha performance eccezionali. Tra i musicisti, per esempio, persino l'orecchio assoluto, è l'abilità di identificare le note ascoltandole, è una capacità che tutti i bambini possono acquistare tra i 3 e i 5 anni soltanto con l'esercizio. Quanto esercizio? Si spiega appunto 10.000 ore. Se non ci si è impegnati almeno 10.000 ore, non si può avere la garanzia di un risultato soddisfacente. Tra l'altro hanno fatto un esperimento che viene poi raccontato appunto in questo numero di Focus. Hanno testato un gruppo di violinisti, suddividendolo sia per le loro abilità mostrate all'inizio dell'esperimento sia per quelle riscontrate alla fine, e hanno notato una correlazione diretta assolutamente evidente tra coloro che si esercitavano di più e coloro che si sono esercitati di meno. Tutti quanti sono violinisti, ma quelli veramente di talento, quelli di successo appunto, erano solo quelli che avevano accettato di esercitarsi molto più duramente, diciamo anche il doppio degli altri. E allora veniamo invece a un altro tema che appassiona sempre i settimanali, appassiona sempre i magazine, si tratta della tecnologia dei social network. Anche questa settimana tante indicazioni, tanti consigli, tante inchieste dedicate agli sviluppi dei vari social network, dei vari sistemi di comunicazione legati a internet. Vi segnalo da Donna Moderna. Donna Moderna propone una inchiesta che si chiama Io Twitter, Tu Friend Feed, Lei MySpace. Sta a indicare che ci sarebbero delle caratteristiche della personalità o addirittura delle questioni di genere tra uomo e donna che fanno preferire l'uno o l'altro dei social network più diffusi. Poi ci ricordiamo anche Second Life e altri. C'è una breve guida alla scelta, l'articolo è appunto su Donna Moderna di questa settimana. Dice, riassume così un po' l'offerta nelle sue caratteristiche più importanti. Facebook è il più diffuso e il più semplice, ci si iscrive, si è subito in rete alla ricerca di nuovi o vecchi amici. In Italia ha oltre 10 milioni di iscritti. Twitter è invece il più amato dalle celebrità, il nome deriva da tweet, che vuol dire cinguettare, perché sul proprio profilo si può scrivere soltanto una frase di pochi caratteri, 140. MySpace è oggi soprattutto la vetrina dei musicisti, degli attori, degli artisti che in questo modo aggiornano i fan sugli ultimi lavori, possono far ascoltare in streaming, significa che non è necessario scaricare il file, ma si può soltanto ascoltare, vedere il brano, vederne il video restando connessi a internet, possono far ascoltare in streaming le nuove canzoni. Poi c'è Second Life, che è un universo virtuale dove chi vuole entrare deve scegliersi un alter ego che si chiama Avatar. E poi in realtà si spiega qui in questa breve guida che il sito ha avuto una iniziale euforia e poi un calo nell'entusiasmo, perché a questo momento è abitato soltanto da 1,5 milioni di utenti, soltanto, naturalmente tra virgolette. Poi c'è friendfeed.com, che è la rete sociale che aggrega tutte le altre, e ci sono appunto su questo social network gli aggiornamenti dai diversi social network. C'è poi una parodia già di Twitter che si chiama Woofer, e ogni utente, anziché avere solo 140 caratteri, ne ha a disposizione 1,400. Poi c'è un altro che si chiama Hubbo, con l'H davanti, che è per i giovanissimi, così indica Donna Moderna. Queste sono le tendenze maggiori dei social network, che paiono essere diventati, almeno a giudicare dallo sfoglio dei settimanali, uno dei passatempi preferiti dagli italiani, e anche quando si tratta di scegliere qualcosa da leggere. Torniamo dopo tutta questa tecnologia a qualcosa che è moderno, sì, ma a questo punto sembra quasi antiquato: gli SMS, cioè i messaggini sul telefono cellulare. Perché? Perché Piero Tone, nella sua rubrica apparsa ieri sul Venerdì di Repubblica, si dichiara innamorato degli SMS. Polemicamente un po' dice: io genovese innamorato degli SMS perché si risparmia, ma in realtà poi nella rubrica lui spiega che sono molte le virtù degli SMS, di questi messaggini che un po' tutti hanno imparato a usare, soprattutto con un curioso avvicendamento generazionale. Perché dice: vorrei rendere omaggio agli SMS, ai brevi messaggi, cioè che in un primo tempo hanno consentito un fitto dialogo tra i giovani, ma che ora circolano fra persone di tutte le età, quindi anche fra gli anziani. Quali sono i loro pregi? In primo luogo richiedono un po' di tempo per essere composti, e questo è un bene, scoraggiano le dichiarazioni impulsive e obbligano a riflettere. Ma soprattutto inducono alla concisione, come stupendo contrappeso alle conversazioni interminabili che il telefono in genere e i telefonini in particolare consentono fra coloro che si annoiano. Nel passato si scrivevano lettere in bella calligrafia, forse su carta profumata. Lo scrittore di una lettera era imparentato con il letterato. Purtroppo, continua Ottone, la specie è estinta, è sopravvenuto il telefono, che presenta infiniti svantaggi, irrompe nella nostra vita nei momenti meno opportuni, infligge una insopportabile molestia ed è intercettabile. Un amico saggio soleva nascondersi dietro la siepe della segreteria telefonica, sempre in funzione. Aspettava che colui che chiamava si rivelasse e decideva di volta in volta se saltare fuori. Spesso colui che chiamiamo, quando siamo noi i seccatori invece dei seccati, è occupato privato avrà le sue buone ragioni per parlare con chissà chi, ma per chi chiama quel segnale di occupato è una scortesia, quasi una molestia. Conclude Ottone: il telefono, insomma, è un regresso. Gli epistolari migliori finivano nelle biblioteche, mentre le intercettazioni finiscono ora nelle cancellerie dei tribunali. Adesso sono comparsi gli SMS, che sono un genere a sé. Giustamente sono stati paragonati ai bigliettini, forse contenenti segreti amorosi, che i servitori discreti portavano col piede veloce da un palazzo all'altro. È vero, i bigliettini del passato potevano essere scritti su carta pregiata con eleganti svolazzi. Gli SMS sono figli del loro tempo, meccanici, impersonali, sbrigativi. Ma quello che si perde in eleganza si guadagna in efficienza tecnica. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di tecnologia, di social network e di SMS. Faccio una cosa che mi capita raramente in questa trasmissione, cioè consigliare dei libri. Lo faccio perché in realtà è un settimanale a consigliare dei libri, si tratta di Famiglia Cristiana e si consiglia, appunto, segnala due libri che si occupano di web, di internet. Fra i nuovi libri in uscita, avverte Federico Polvara nella sua rubrica dedicata ai nuovi media, non mancano i saggi tecno-scettici, cioè che stroncano la rivoluzione introdotta dal web, seminando dubbi sulla sua effettiva utilità. Di solito, avverte Polvara, si tratta di pamphlet che sono scritti dall'esterno, cioè da persone che non conoscono la tecnologia ma ne osservano preoccupati le conseguenze sulla società. Di recente invece sono usciti due saggi decisamente più argomentati, perché scritti da persone competenti e soprattutto con esperienze lavorative dentro la rete. L'uno è Il grande inganno del web 2.0, il libro di Fabio Metitieri, e l'altro è Dilettanti.com di Andrew Keen. In estrema sintesi, la tesi che è sostenuta dai due autori è che i nuovi strumenti messi a disposizione di tutti da internet stiano provocando un'immensa marea di contenuti privi di valore, che distruggono competenze e professionalità. In uno dei testi si fa riferimento a una vignetta in cui si vedono due cani. Un cane dice all'altro: tanto su internet nessuno sa che sei un cane. Questa vignetta viene presa un po' a paradigma per dire quanto ci si può o non ci si può fidare delle informazioni che si trovano nella rete. In realtà la conclusione di Polvara è più prudente: sebbene il web abbia concesso spazio a tutti, i nuovi siti hanno già sviluppato meccanismi di selezione dei contenuti abbastanza efficienti che le teorie dei due autori sembrano ignorare. Però, insomma, il discorso che ci sia tutta questa disponibilità di informazioni sulla quale non sempre si può avere un controllo su chi le ha fornite o sulla loro attendibilità o anche solo sulla loro attualità, perché potrebbero essere state superate da qualcos'altro, beh, questo è effettivamente un problema che con la diffusione della rete e l'utilizzo soprattutto massiccio della rete anche sul posto di lavoro si sta ponendo molto seriamente. E sarà forse per questo, cioè per questa difficoltà a rapportarsi con le tecnologie, che abbiamo o sembriamo avere dei momenti nostalgici sempre più evidenti, se lo chiede anche Panorama, che dedica in questo numero una serie di pagine alla nostalgia, storia e memoria di un sentimento che gioca a riscrivere il passato. C'è una lunga serie di fotografie, di schede, che vanno a corredare un breve racconto quasi di Giuseppina Torregrossa, che è una scrittrice, appunto, sul filo di Baria, il racconto appassionato di una grande scrittrice che, ripercorrendo quasi come un contrappunto la Sicilia del dopoguerra raccontata da Tornatore, mette in scena il proprio teatro dei ricordi. Ecco, in questo senso la nostalgia, quindi il culto di qualche cosa che non è più nella nostra materiale disponibilità, e per questo proviamo rimpianto. Sono interessanti le schede che accompagnano il lavoro della Torregrossa. Ad esempio, tra gli oggetti meritevoli di nostalgia viene indicata la Fiat 500, la Fiat 500 disegnata da Davide Giacosa, naturalmente riproposta negli anni più vicini a noi con un assetto più moderno. Il frigo Smeg, qualcuno lo ricorderà, degli ascoltatori diciamo non giovanissimi, era un frigo particolarmente imponente e squadrato, ma con la caratteristica di avere questi angoli arrotondati. Sta tornando di moda nelle cucine. Naturalmente non è mai passata, non è mai uscita dalle nostre cucine la moca Bialetti, ma avverte Panorama anche per i dischi in vinile. C'è un momento nostalgico, ad esempio per i 30 anni del loro album più venduto, Dark Side of the Moon, anche i Pink Floyd hanno deciso di tornare al vinile, quindi c'è la riproposta del vinile. E già che siamo in tema di suoni e musica, ci sono le radio che fanno il verso alle radio di tanti anni fa, ne potete trovare di diversi tipi, e persino abbiamo visto, se ci fate caso, parecchie pubblicità che riprendono slogan degli anni 50 o 60. Naturalmente tra gli oggetti meritevoli di nostalgia compare anche la macchina da scrivere, oramai superata dal computer, messa definitivamente in soffitta o quasi dal computer. Il simbolo scelto da Panorama per illustrare la nostalgia è quello della lettera 22, era una macchina da scrivere particolarmente leggera e molto usata anche nei giornali. C'è un'inchiesta che ho trovato sull'Espresso di questa settimana che non ha molto a che fare invece con le questioni né di nostalgia né di tecnologia, ma è invece un preoccupante fenomeno dei tempi moderni. Riguarda la pirateria. Tutti abbiamo sentito queste vicende di pirati che hanno sequestrato navi, per lo più commerciali, imbarcazioni commerciali, per chiedere riscatti, ma avverte l'Espresso, adesso i pirati mirano agli yacht. Ci sono panfili che vengono assaltati dai sub, ci sono velieri che vengono fatti sparire. Scrivono Marco Preve e Marco Lignana sull'Espresso: ci sono bande di boss tunisini all'attacco nel Tirreno. Viene poi raccontata la vicenda di una inchiesta, di due inchieste che sono partite dalla Procura di Savona, quella del pubblico ministero Giovanni Battista Ferro e del comandante della Capitaneria di Porto di Loano, Antonio Raffone. Sono partite da un GPS, meccanismo che permette di localizzare imbarcazioni e non solo. Il settaggio dello strumento e le testimonianze di uno yacht assaltato appunto dai pirati indirizzano alla pista dei russi, che avrebbero appunto cercato di sottrarre uno yacht da 24 metri nel porto di Loano nei mesi scorsi. Ma quello che viene anche riferito in questa inchiesta è che c'è una vera e propria clonazione delle barche a vela, cioè barche a vela che vengono rubate nei porti della Costa Azzurra, vengono ripulite in officine della Riviera Ligure o Toscana, dotate di targhe, sigle e documenti che sono stati clonati a imbarcazioni olandesi. In questo modo sono già state trovate 7 barche sequestrate, naturalmente dalla magistratura, e 9 persone tra Sanremo e la Toscana risultano attualmente indagate. Quindi una sorta di pirateria moderna che molto meno romantica sicuramente di quella dei secoli passati, ma anche molto più agguerrita, tecnologica e in grado di far perdere le sue tracce. E con questa vicenda di pirateria abbiamo concluso anche oggi la nostra puntata. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio Filippo Aureggi per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A sabato prossimo.